Dialogo quattordicesimo. Raccontò Abu Razin al-Uqayli: un giorno chiesi all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: o apostolo di Allah, nel giorno della resurrezione potremo vedere il nostro Signore, rimanendo ciascuno di noi solo con Lui? Mi rispose dicendo: certamente. Allora lo interrogai di nuovo chiedendogli: c'è nel creato una prefigurazione di come ciò avverrà? Mi rispose: o Abu Razin, avverrà come quando qualcuno di voi, solo in mezzo al deserto, vede la luna piena. Dissi: ho capito. Allora aggiunse: però questo paragone non può dare che un'idea pallidissima di quello che avverrà, poiché Allah è il maestoso e infinito.